Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je Overbooking sui 102.2 di Radio San Donà. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata in nostra compagnia. Anche questa sera si parla di libri, come ormai vi abbiamo abituati da 2 anni a questa parte. Si sta infatti per chiudere la seconda stagione del nostro programma e con l'occasione posso ringraziare Matteo Polo che, come sempre, è il deus ex machina della programmazione odierna, ma anche più generale. Un saluto a Daniele Terzariol che ci aiuta in regia, ad Alice che ritorna dopo anni e anni di abbandono a leggere per noi. Il libro di questa sera è Fiabe e leggende del Piave, scritto da Laura Simeoni e edito dall'editrice di Treviso Santi 40 nel 2010. Lo presentiamo anche per orgoglio cittadino e patriottico più in generale, nel senso che Laura Simeoni sarà il prossimo venerdì, quindi venerdì 17 giugno, presso le librerie COP al centro Piave, qui a San Donà di Piave, verso le 18:30, e appunto presenterà il suo libro Fiabe e leggende del Piave assieme a Espedita Grandesso, che ha raccolto un libro simile intitolato Fiabe Venete, in un dialogo coordinato da Luisa Pestrin. Questo appuntamento fa parte del più generale set di appuntamenti organizzato dalle librerie COP di San Donà di Piave, intitolato Il Piave, i Veneti e il Nord-Est. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che vuole parlare di temi e argomenti a noi propri e a noi cari, e quindi si parla di Veneto, di Piave e di Veneti sotto una pluralità di punti di vista, partendo da un punto di vista più sociologico e socio-economico e per andare anche alla criminalità, abbiamo avuto Monica Zornetta che ci ha parlato di Felice Maniero, poi lo scorso venerdì 10 giugno abbiamo avuto un interessante incontro sul Piave e la sua morfologia e la storia o le storie che adesso si intrecciano, un interessante incontro appunto a cui sono intervenuti Alessandro Marzomagno e Ulderico Bernardi. Poi venerdì 17 giugno appunto Laura Simeoni e Spedita Grandesso, come vi dicevo. Andiamo poi a venerdì 24 giugno con un approccio più di nuovo sociologico e la presentazione di due libri, Cuor di Veneto curato da Stefano Lorenzetto e poi Gianmario Villalta invece ci presenta Padroni a casa nostra. Gianmario Villalta, devo dire tra l'altro, intimo amico di Matteo Polo perché è l'organizzatore e questo rende l'incontro assolutamente interessante. Gianmario Villalta, dicevo, è l'organizzatore di Pordenone Legge. Infine si chiuderà con venerdì 1 luglio Maria Pia Velladiano e il suo La vita accanto. Ora, ritornando a parlare invece di fiabe e leggende del Piave, appunto a firma di Laura Simeoni, andiamo a leggere con Alice il primo racconto o la prima fiaba inclusa in questo in questa raccolta. Si intitola La fata che diede il nome al Monte Peralba. Una bellissima fata viveva in un tempo molto lontano dal nostro alle pendici del Monte Peralba, che allora però non aveva alcun nome. Era una fata dei boschi e nei lunghi capelli scuri portava intrecciati i fiori che amava raccogliere nei prati, nelle ampie distese ad alta quota al confine tra il Veneto, l'Austria e il Friuli Venezia Giulia. Qualche volta scendeva a Sappada, lasciando una scia di profumo al suo passaggio, che era l'unico modo per indicare la sua presenza, dal momento che la bella fata sapeva rendersi invisibile quando passava attraverso i villaggi abitati. Si racconta che quella splendida creatura amasse tanto quei luoghi da trascorrere ore ed ore ad ammirarli mentre il sole percorreva il suo arco nel cielo. Quando scompariva dietro le montagne, le rocce, gli alberi e i prati perdevano a poco il loro colore, tingendosi di malinconia. Qualche boscaiolo giura d'averla vista abbracciare i grossi tronchi d'abete in uno slancio d'amore, cercando il contatto con quella natura da cui però la divideva sempre una sottile barriera. Se fosse stato per lei, si sarebbe trasformata subito in foglia, levandosi leggera nel vento oppure in una genzianella azzurra per colorare l'erba e i cespugli. Le sembrava quasi di volare per la felicità quando entrava nell'ampia Val Visdende o nella vicina Val di Sesis, dove i monti si aprivano, inchinandosi all'azzurro del cielo. Il suo desiderio di fondersi con l'anima delle alte cime crebbe sempre più, finché una notte la montagna rispose alla sua preghiera e sussurrò parole sommesse che solo lei riuscì a percepire. Sorridendo, la bella fata si alzò in piedi, sollevando le braccia al cielo, e dopo aver compiuto una graziosa piroetta, quasi cullata dalle ali del vento, tornò piano piano a toccare terra, adagiandosi senza far rumore. Non appena i lunghi capelli scuri toccarono il suolo, ne scaturì acqua sorgiva, zampillante e fresca, che presto scivolò in piccoli rivoli lungo il pendio, giù verso valle. L'abito intessuto di veli colorati si sbriciolò polverizzandosi in mille farfalle colorate che sfioravano i prati trasformandosi in fiori profumati, mentre il candore della sua pelle si riflette con un bagliore sulla roccia dell'alta montagna, dandogli il nome di Pietra Bianca, Peralba. In certe notti, guardando attentamente verso la cima, nelle rocce più alte e candide, si può scorgere ancora a riflesso il volto della bella fanciulla, dal cui amore per quei meravigliosi luoghi nacque il fiume Piave. Questo era La fata che diede il nome al Monte Peralba, il primo estratto da Fiabe e leggende del Piave di Laura Simeoni. Questo è un libro che raccoglie una serie di estratti di fiabe o appunto, come in questo caso, di leggende che riguardano più intrinsecamente il Piave e lo seguono dalla sorgente alla foce. Quindi partiamo dal Peralba per arrivare alle foci del Piave nel proseguio del libro. La lieta novella è che a breve avremo Laura Simeoni in collegamento telefonico con noi e ci spiegherà i contenuti del suo libro e cosa l'ha spinta a scrivere sul Piave, che è un argomento certamente interessantissimo. Prima, breve intermezzo musicale, questo è l'ultimo singolo di Zucchero, Vedo Nero. Questa era Vedo Nero di Zucchero sui 102.2 di Radio Sandonà e dovremo essere in collegamento telefonico con Laura Simeoni, che è l'autrice di Fiabe e Leggende del Piave, il libro che stiamo presentando questa sera sempre sui 102.2 di Radio Sandonà. Ci sei, Laura? Ci sono, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Sandonà. E scusatemi se sentite poi entrare rumori strani, perché sono ad una bellissima festa, la festa dei popoli, ci sono 40 etnie, stanno suonando, ridendo, cantando e siamo a Giavera del Montello. Quindi un contesto bellissimo e però musica tipica. Certamente, certamente. E speriamo che non disturbi, e comunque al limite, insomma, cantiamo e suoniamo. Esatto, accompagneremo con le mani. Allora, stiamo presentando il tuo libro Fiabe e leggende del Piave. Parto subito con una domanda di notevole originalità, ossia come, perché ti è venuto in mente e perché ti è piaciuto parlare di questo argomento e quindi parlare di Piave. Allora, diciamo che i motivi sono molteplici, nel senso che la parte di fiabe e di leggenda è un settore, insomma, è un argomento che penso piaccia un po' a tutti, fin da bambini, e qualcuno poi rimane con questa passione anche da adulto, perché c'è la magia della natura, la magia degli animali, delle piante, è un fascino che ti può rimanere nel cuore, questo è un motivo. Poi il motivo contingente, dovete dare la colpa, la responsabilità o quant'altro all'editore di Santi 40, che è Ferruccio Mazzariol, perché è stato lui che poi inizialmente mi ha dato lo stimolo per pubblicarle poi queste novelle, nel senso che lui è nativo di un paesino, Salgareda, vicino al Piave, e voleva raccontare, tra Ponte di Piave anzi e Salgareda, e voleva raccontare le storie della sua infanzia, però ha detto io non ho uno stile così fantasioso, uno stile di scrittura diverso, più ostico, più complesso, e quindi perché non provi tu? Infatti alcune storie di questo libro sono anche memorie dell'editore, di Ferruccio Mazzariol, quindi c'è stata questa concausa che ha portato alla pubblicazione del libro Fiabe e leggende del Piave, che ha inaugurato la collana Ciclamini, che è una collana dedicata proprio alle leggende popolari. È carino che lui si chiami Ferruccio Mazzariol, e Mazzariol è uno dei temi trattati nelle tue Fiabe e leggende. È il nome di un folletto, forse il folletto più popolare di tutto il Veneto, è conosciuto addirittura anche in Emilia Romagna, in Trentino, in Friuli, cambia un po' il nome perché alcuni lo chiamano Mazzariol, altri il Mazzariolo, Mazzarot, però è sempre lui, è un folletto con la mazza che percuote sui tronchi, e da qui viene questo suo nome un po' strano. E poi fa tanti scherzi, ecco. E nel tuo libro tieni lontano gli unni. Sì, esatto, che sono scesi con Attila, con questo capo barbaro, spaventevole e spaventoso, che è rimasto poi in tutti i racconti popolari per i disastri che ha fatto e le scorribande scendendo appunto dal nord. Però grazie alla famiglia dei Mazzariotti, Oderzo si sarebbe salvata, questo dice la leggenda, perché poi in realtà non è stato così, nel senso che Oderzo non si è proprio salvata del tutto dalla furia di Attila. Comunque, insomma, nella leggenda popolare è stata un po' modificata la storia reale. Io volevo anche chiederti poi da che fonti trai lo spunto per raccogliere, per questa raccolta in sostanza? Sì, allora le fonti sono di diverso tipo. La leggenda popolare ha sostanzialmente come prima fonte la fonte orale. Purtroppo succede che nel corso dei secoli la memoria si è un po' persa, soprattutto nella parte di pianura, perché mentre in montagna i nonni hanno ancora la tradizione, ancora oggi, questo uso di raccontare le storie del territorio ai loro nipoti, man mano che si scende lungo il corso del fiume, in questo caso la Piave, e poi cercheremo anche, se vuoi, di capire perché dico la Piave e non il Piave. Infatti questa era la mia famosa terza domanda. Ecco, bravo, ti sei preparato bene allora, perché è una cosa curiosa quella del femminile e maschile. Come dicevo, che per esempio a San Donà si sono perse molte tradizioni, se non quella famosa del gallo, ma per il resto ce ne sono poche, mentre in montagna ce ne sono di più, quindi le fonti orali sono soprattutto nella zona montana. Man mano che si scende mi hanno aiutato le biblioteche, ovviamente, perché nei libri qualcosa si trova, e incredibile ma vero, gli annuari parrocchiali, perché in quei libroni che ciascuna parrocchia ha, il parroco spesso annotava, magari adesso non lo fa, una volta annotavano anche le dicerie come del paese, per cui qui si racconta che c'era la chiesa infestata, allora abbiamo benedetto, e quindi anche attraverso i libri dedicati alle parrocchie si trova qualche notizia. Ah, e poi dimenticavo i gruppi folcloristici. Questi riescono ancora a custodire alcune storie. Per esempio a Treviso c'è il gruppo folcloristico trevigiano, che ha un bel patrimonio di leggende, in particolare con degli studiosi come Emanuele Bellò. E a San Donà c'è il Museo della Bonifica, che anche lì ci sono documenti interessanti. Infatti, tra l'altro, io ho trovato leggere il tuo libro assolutamente interessante, perché soprattutto ci regala una serie di in realtà una serie di nozioni che possiamo collegare al nostro anche vivere quotidiano, e che altrimenti e di cui, per dire, non sapevo l'origine. Per dire, il famoso ristorante alle Marcandole, che è qui vicino, io non sono mai riuscito a darmi una spiegazione fino a che sei arrivata tu. Ma posso confidarti un segreto? Certo. Senza che sento gli ascoltatori, come si fa, oscuriamo. Allora, non lo sapevo neppure io, nel senso che l'ho trovato, anch'io andavo a mangiare, sono andata a mangiare, poi ho scoperto, leggendo i documenti, che si trattava di pesci. Non lo sapevo neppure io, sai. Ah, ecco, e allora, ignoranti in due. Però no, infatti, e è proprio questo, credo, il bello del tuo libro, come di altri che si occupano di questo tema, ossia il portare avanti una tradizione che, appunto, come dicevi tu, è in larga parte legata alla storia orale, per cui andrebbe ovviamente persa. E ora andiamo all'ultima e fondamentale domanda: perché si parla della Piave e non del Piave? Ah, eccola. Allora, anticamente il fiume era femminile, è sempre stato chiamato al femminile. Poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quando c'è stata la famosa epopea del Piave, dalla canzone del 24 maggio, ti ricordi? In tutta Italia si cantava, no? Il Piave sì. Montò. E con poi i canti anche d'annunziani, che hanno trasformato il fiume in quasi un elemento maschio e guerresco e guerriero, è diventato maschile. Però anticamente il fiume era femminile, tant'è che in montagna ancora chiamano il fiume la Piave e non il Piave. Poi c'è un'altra caratteristica interessante che ho scoperto leggendo alcuni documenti dell'Ateneo Veneto del 1800. Era una professoressa, Nardo Cibele, che studiava in particolare queste cose, le tradizioni popolari, e lei ha raccolto le testimonianze di alcuni anziani che differenziavano l'acqua stessa degli affluenti in maschia e femmina, dicevano. Ovvero, la Piave è considerata un fiume femmina perché è molto bizzoso, sempre secondo gli anziani, e che non sia mai, perché il femminile non viene proprio abbinato a questi aggettivi. Comunque era bizzosa, incostante, capricciosa, quindi decideva se ingrossarsi o non ingrossarsi, uscire dagli argini o non uscire, ma molto imprevedibile. Mentre altri fiumi più tranquilli, perché erano più prevedibili, erano dei fiumi maschili. Ecco, questa è un'altra cosa molto curiosa legata all'acqua. E l'ultima differenza tra maschio e femmina era secondo la qualità. Una volta i vecchi assaggiavano l'acqua e dicevano: questa è acqua femmina, questa è acqua maschio, a seconda degli sali che aveva dentro. E la Piave, assaggiandola, è un'acqua femmina. Esatto, questo dicevano sempre i vecchi. E ripeto, in montagna ancora adesso si trovano, perché io ho un amico che è di Pieve di Cadore e mi raccontava che il nonno aveva queste caratteristiche, assaggiava, diceva: questa acqua buona, questa è femmina, questa no, è maschio, è meglio solo per i campi, mentre questa si può bere, assaggiandola. Aura, ti ringrazio tantissimo per questi momenti che ci hai regalato, è estremamente interessante come contributo. Io quindi ti ringrazio, e poi ci vediamo quindi venerdì 17 giugno alle 18:30 presso le librerie Coop. Certamente, grazie, e aspettiamo ovviamente tutti gli ascoltatori di Radio San Donà. Grazie per essere stata con noi, a presto. Ciao. Thank you. is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Cinematic Orchestra sui 102.2 di Radio Sandonà, ben ritrovati in compagnia di Overbooking e del nostro libro di questa sera, che è Piave e leggende del Piave, scritto da Laura Simeoni e poi edito da Editrice Santi 40 nel 2010. Laura, che ringraziamo ancora per essere stata con noi, e che ha raccolto in questo Fiabe e leggende del Piave una serie di spunti, secondo noi anche necessari, che fanno parte della storia più popolare, quindi del folklore locale, che unisce tutte le popolazioni che presso il Piave vivono in qualche modo. E come andremo a vedere tramite la voce di Alice a breve, abbiamo anche qualcosa che riguarda precipuamente la nostra zona e San Donà di Piave. Prima però vi ricordo come sempre che potete intervenire e prestare aiuto, suggerimento o quant'altro telefonando allo 0421 56 0993 o mandandoci una mail a radio@radiosandona.it. Inoltre, la puntata con Laura, come tutte le nostre precedenti, sono sempre ascoltabili o scaricabili da www.bloverbooking.wordpress.com. Con l'occasione vi ricordo anche il sito di Radio Sandona, www.radiosandona.it, dove potete trovare notizia di tutto quello che ruota attorno alla radio, quindi palinsesto, programmazione, altri programmi ed eventi che ci riguardano. Troverete inoltre tutte le informazioni utili per le iniziative condotte da Librerie Coop, quindi non solo quanto è passato e che vi ricordavamo in anticipo all'inizio puntata sul ciclo di conferenze Il Piave, i Veneti e il Nord-Est, ma anche gli incontri futuri, e quindi venerdì 24 giugno e poi a chiudere venerdì 1 luglio con Maria Pia Veladiano che presenta il suo La Vita Accanto. Maria Pia Veladiano, tra l'altro, una delle possibili finaliste del premio Strega. Ora, ritornando a noi, andiamo a leggere con Alice un secondo estratto da Laura Simeoni e il suo Fiabe e leggende del Piave. Questo estratto riguarda, appunto, come si diceva, San Donà e parla fatalità di capponi. Era splendido fermarsi ad ammirare il tramonto in laguna. Salendo sui piccoli dossi che segnavano anticamente la fine della pianura, tenendo alle spalle i fitti boschi di cui si trova oggi traccia nei dintorni di Cessalto, ti si allargava il cuore e potevi restare immobile, incurante del freddo o del caldo, ad ammirare la placida distesa d'acqua azzurra e verde. Il sole scendeva lento all'orizzonte e i gabbiani volavano bassi tra i ciuffi di canne alzando spruzzi dorati. Potevi percepire il respiro di Dio in quei rimbalzi di luce, mentre lo sguardo vagava qua e là, soffermandosi su qualche isolotto raggruppato nell'arcipelago della Melidissa. Allora tutte le terre comprese fra Piave e Livenza non stagnavano in malsane paludi, abitate dalle terribili zanzare portatrici di malaria. L'acqua scendeva a volte rapida, altre lenta, verso il mare Adriatico, risanando ogni cosa. Certo, le piene facevano paura, poiché il grande fiume usciva dal suo letto, allagando campi e case, ma poi tornava tranquillo e i detriti arricchivano la terra. Nelle alluvioni, come durante le invasioni dei barbari, la gente era abituata a scappare sulle isole al primo sentore di pericolo, senza attaccarsi troppo ai beni, che tra l'altro erano in pochi a possedere. La Piave scendeva girando il bosco del Montello e scorreva lasciandosi sulla destra Treviso, dopo aver passato Arcade e Ponzano, entrando di prepotenza nelle acque del Sile, con cui proseguiva abbracciata fino alla laguna veneziana, sfociando in un ventaglio luccicante a Caposile. Piave e Sile formavano un'entità unica, anche nella testa di molti grandi uomini, dediti a raccogliere parole su pergamena a memoria futura. Fu solo nell'anno 600 che Fortunato Venanzio usò per la prima volta il termine Plavem, distinguendolo dagli altri fiumi con i quali intersecava continuamente il corso. Il vescovo di Poitiers era nato a Valdobbiadene e volle così rendere omaggio a quel corso d'acqua che gli ricordava l'infanzia, inserendolo in una dotta relazione di viaggio. Piave e Sile si confondevano nella zona di San Donà, sulla strada tra Oderzo e Altino, che tagliava un confine importante, fatto di sassi e campi piatti interrotti bruscamente da un cordone di fitti alberi, posti a corona dell'ampia distesa d'acqua, fango e isolotti. Un luogo ideale per la pesca. Ma poco più in su si poteva andare a caccia di lontre, martore, volpi, tassi ed altri animali dalle pelli pregiate. Poi si raccoglieva il sale, si tagliavano alberi per riscaldarsi e scaldare i signori. Non sempre rientrando nelle regole. C'era chi sceglieva il rischio della vita nomade. Erano i temibili pirati di fiume con i casoni montati su grandi zattere, si spostavano continuamente nelle paludi fra San Donà, Cezza, Staffolo e gli Stretti. La chiesa, dal canto suo, si dava da fare, tentando di radunare le piccole comunità attorno alle sacre cappelle e ai loro santi. In questo modo i paesi cominciarono a prendere il nome dai loro santi protettori. Perché la gente di Musile si fosse affezionata tanto a San Donato, nessuno lo sa. Pare che il grande uomo di Dio, vescovo di Evorea nell'Epiro greco, fosse addirittura passato di là. Certo è che la fama di San Donato, dopo l'anno 1000, si diffuse rapidamente in queste terre, tanto da indurre i vescovi a dedicargli una cappella, attorno alla quale potesse coagularsi la comunità, dedicandosi a pratiche più cristiane del bracconaggio. C'è chi cita la chiesetta posta al confine torcelliano presso Torre del Caligo, chi invece la ricorda più a nord, laddove la Piave sembrava dividersi in due ampi rami, il Canal d'Arco e il Vecchio Piave. La zona detta dei Musili, perché ricca di rialzi nel terreno, arginati dal consolidamento dei cumuli di limo plavense, fu presto identificata con il suo patrono San Donato. Ma i fedeli non avevano fatto i conti con la Piave e i ricorrenti capricci. Una spaventosa inondazione tagliò in due il paese, lasciando la chiesetta a destra del fiume. Quando le acque si ritirarono, le famiglie rimaste a sinistra non si persero d'animo e con fiducia ricostruirono la chiesa intitolandola stavolta a San Remigio, vescovo di Reims. Se lui, tanti secoli prima, era riuscito a conquistare il cuore del re pagano Clodoveo, battezzando 3.000 franchi, anche loro l'avrebbero finalmente avuta, vinta, contro quegli scherzi d'acqua del destino. Ma si sa che quando ci si affeziona a qualcuno, sia una moglie, un figlio o un santo, è difficile d'un tratto staccarsene. Presi dalla nostalgia, gli abitanti di San Remigio vollero in qualche modo ricordare, nel nome del paese, l'amato santo. Tanto fecero e tanto pregarono che alla fine convinsero i vicini di Musile. La frazione cresciuta attorno alla cappella di San Remigio prese il nome di San Donà e Musile, dal canto suo, conservò il titolo nella chiesa parrocchiale. Ciascun paese possedeva dunque un importante riferimento a San Donato e la questione, che rischiava di degenerare in rivalità accesa fra le frazioni, fu finalmente risolta. La cerimonia organizzata per suggellare quello che ancora oggi si chiama patto di amistà risale al 7 agosto di un anno imprecisato del XVI secolo. L'accordo fu scritto a lettere d'oro su una grande pergamena svolazzante e la sera stessa, di fronte alla chiesa di Musile, ebbe luogo una grande festa in cui il patto fu suggellato con il dono simbolico di due vivaci galli capponi. Le autorità di Musile, con il piovano al centro, erano schierate in strada, pronte ad accogliere i vicini di San Donà, che giunsero dopo il tramonto, preceduti da suonatori e danzatori. Dietro una grande folla ed in mezzo i due capponi, rinchiuse in piccole gabbie di legno, portate da graziosi paggi. La gente di Musile era assiepata lungo le sponde del fiume e applaudiva, cantava, ballava, al suono festoso dei musicanti. Giunto di fronte alla chiesa, il parroco di quella, che fino a pochi minuti prima era la comunità di San Remigio, chiese in forma solenne: «Volete voi di Musile donare a noi, vicini e fratelli, il nome del vescovo e martire San Donato?» La risposta affermativa provocò il levarsi di grida di giubilo tra la folla e diede il segnale che tutti aspettavano, l'inizio ufficiale dei festeggiamenti. Fu così che Musile cedette a San Donà il nome, ma non il patrono, che ancora effonde la sua protezione dalla riva destra della Piave, attraverso una preziosa reliquia custodita nella chiesa parrocchiale. E questa era San Donato e i due capponi dalla brillante e longilinea voce di Alice che ci ha tenuto compagnia questa sera. Ringraziamo ancora Laura Simeoni e vi ricordiamo il suo intervento il prossimo 17 giugno presso il centro commerciale Piave alle ore 18:30, dove presenterà appunto Fiabe e Leggende del Piave, che vi consigliamo caldamente come lettura non solo per i vostri bambini ma anche per voi stessi, perché troverete una serie di spunti interessantissimi su quella che è la nostra storia popolare, il nostro folklore più in generale. Ora Overbooking vi saluta e vi rimanda alla prossima settimana. Continueremo a seguire le iniziative letterario-culturali del Centro Piave e delle librerie COP. Un caro saluto a tutti voi, un ultimo ringraziamento a Daniele Terzarioli in regia. Vi salutiamo con Jaco Pastorius, questo è Portrait of Tracy.